Venerdì 19 ottobre, intanto uno sguardo ai titoli, c'è chi apre con orizzonti europei. È il Sole 24 Ore, Unione Bancaria in due tappe, questo è il titolo di apertura di prima pagina. Per il Corriere della Sera, la sfida Merkel-Hollande, Repubblica Europa, attacco della Merkel, La Stampa, Unione Europea, l'Italia completi il lavoro. Il Manifesto, Fiscal Combat, si gioca sul Fiscal Compact e c'è una foto degli scontri ad Atene. Combat, quella parola, tra l'altro ieri c'è stato un morto ad Atene per gli scontri. Merkel, Hollande e scontro, questo è il titolo di apertura del Messaggero, mentre la vicenda di Fini e la casa Monte Carlo per il giornale. Fini scarica la moglie, Monte Carlo amara, titola in prima pagina il giornale appunto. Libero, il gioco d'azzardo di Fini. Il Fatto Quotidiano invece, se Renzi vince, D'Alema fa un partito di sinistra, è una rivelazione che fa Libero, scusate, il Fatto Quotidiano, e c'è anche su Pubblico peraltro. Unità sulle primarie, le primarie in paradiso fiscale, l'Unità che attacca Renzi perché alla raccolta fondi ha invitato un finanziere, organizzata la raccolta fondi da un finanziere che ha fondato una società alle isole Cayman. Questi alcuni dei titoli di apertura, anche Avvenire sull'Europa, l'Europa torna strabica e tra poco vedremo di cosa si tratta, mentre Pubblico mette in prima pagina la foto celebre, ricordate quel ragazzo nudo che corre per un Atene tra macerie e devastazione quando è arrivata Angela Merkel, questo ragazzo nudo simboleggia, secondo Pubblico, la legge di stabilità. Cioè ci rende nudi in pratica. Voglio partire però da alcune notizie che provengono dal mondo della casta, cosiddetta casta, perché davvero oggi ce ne sono di stuzzicanti, come sempre poi il venerdì, così passate un weekend rilassante. Allora, la prima riguarda il presidente del Consiglio regionale abruzzese, cioè della regione Lazio. Il presidente del Consiglio del Lazio a tutto gas, in auto blu, 50 multe, prima pagina del Messaggero, Vittorio Buongiorno. Non ha avuto bisogno di incrociare sulla sua strada un vigile zelante con la faccia di Alberto Sordi mentre sfrecciava con l'auto blu. È bastato il tutor. L'algido rilevatore di velocità piazzato sull'autostrada non è stato da meno del pizzardone simbolo degli anni 60. Ne ha fatto le spese il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese. Anche se a quanto pare il conto finiranno per pagarlo i contribuenti. E aggiungiamo noi, non avevamo dubbi. Sfreccia in auto blu, a pagina 6 continua l'articolo. Ha preso sulla Cassino Roma, abita Cassino, andata e ritorno, mattino, sera, direzione nord e sud. Gli autisti del presidente correvano con regolarità e gli autovelox l'hanno pizzicato. Superava i 130 km, le multe sono fioccate, decine, 36 per la precisione, tra il settembre 2010 e il settembre 2011. Ma la cifra sembra destinata a salire, ci vogliono i tempi di notifica. La presidenza del Consiglio ha fatto immediatamente partire ricorsi innanzi al prefetto di Frosinone, è certo, specificando che il veicolo multato era assegnato a compiti istituzionali e che il conducente ha la qualifica di agente di polizia di Stato. E dunque, contestazioni, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, abruzzese, ha preso 50 multe, anzi 36, ma arriveranno a di più, a un numero più alto. E nel frattempo, problemi con l'auto, nel frattempo è diventata abbastanza celebre lo shopping in contromano di Renata Polverini, governatrice ancora del Lazio, dimissionaria. La Polverini fa shopping contromano, così titola Libero, dedica un articolo di prima pagina che continua poi a pagina 7. La vicenda è stata raccontata da una persona normale che ha intercettato questa macchina che in via del Corso a Roma contromano attraversava appunto via del Corso e quindi l'ha seguita questa cittadina romana, incuriosita, l'ha seguita e ha visto che questa macchina ha fatto delle manovre abbastanza improbabili, Piazza Venezia, poi insomma si è persa nel traffico di Roma, ma l'ha seguita questa moto e ha scoperto che è scesa poi Renata Polverini. Da lì su Twitter, sulla rete è stata diffusa questa notizia, la Polverini contromano con l'auto blu. fa shopping, lei non smentisce e la giustificazione che ha dato ieri sera è stata molto arrabbiata da Polverini, non era l'auto blu ma l'auto di servizio di scorta, ma ho già chiesto al prefetto di togliermi la scorta. Cioè, quindi, tradotto, è tutto vero, evidentemente che questa auto è andata contromano in Via del Corso e poi è andato a fare shopping. Contromano in auto blu nelle vie del centro, polemica sullo shopping della Polverini, così titola pagina 11 anche Repubblica, ma la Polverini ha smentito solo che si trattasse dell'auto blu. Ma quale auto blu? È l'auto della scorta, scaricando dunque sulla scorta. Che dire poi allora di quello che racconta Pierluigi Battista oggi sul Corriere della Sera a pagina 10, quando i politici sistemano fidanzati e fidanzate, va bene, scrive Battista, anzi va male, ma è possibile che non ci sia niente di nuovo, che ci sia sempre fatto così? Però forse un velo di pudore, di ipocrisia, un minimo di salvaguardia delle forme non sempre sarebbero da evitare. Che i politici piazzino fidanzati, fidanzate, amanti, mogli, figli, cugini, nipoti, cognati, senza quel minimo di vergogna, almeno di nascosto, la dice lunga su un costume che è diventato talmente comune da essere praticato con arrogante spudoratezza. In Calabria, in Lombardia, nel Lazio, ovunque, a sinistra, nel centro, a destra. L'ultima è la presidente della provincia di Catanzaro, signora Wanda Ferro, sulle cui capacità e competenze politiche non possono sorgere dubbi, e che ha nominato direttore generale il suo compagno. Ora, già le province non godono di ottima reputazione, scrive Battista. Già la politica non è quella cosa che crei molto entusiasmo tra i cittadini che ironicamente chiedono a Crozza dove sia esattamente ubicato quel negozio di forconi di cui aveva fatto cenno e che loro vorrebbero svaligiare. Ma insomma, si poteva evitare un presidente di provincia che usa i suoi uffici come ente di collocamento per il suo sicuramente competentissimo compagno? E conclude Battista, nemmeno le forme da salvare, l'ipocrisia di un tempo da tenere al riparo. Sicuramente sarà un dirigente coi fiocchi il compagno della presidente della provincia di Catanzaro, ma sarebbe stato preferibile provare i suoi talenti altrove, lontano dal potere politico di famiglia. Una questione di forme, di pudore e anche, chissà, di decoro. Così Pierluigi Battista oggi sul Corriere, per la scelta del presidente della provincia di Catanzaro di nominare direttore generale il suo compagno. Quando sono le 7:35 minuti, eccoci qua. Allora, come detto, molti giornali aprono sulla situazione in Europa. Perché? Perché i leader europei sono a Bruxelles, stanno cercando di trovare un accordo non facile per le soprattutto per l'ostracismo e i conflitti tra Merkel e Hollande, la cancelliera tedesca, e il presidente francese su cosa? La vigilanza unificata sulle banche, la stretta sull'unione bancaria, come viene definita. Si è delineato un compromesso sui tempi, uno slittamento operativo dal 2013 al 2014, come chiesto dalla Germania. L'accordo però è arrivato, almeno in linea di massima, come scrive Beda Romano sul Sole 24 Ore, pagina 3, il quadro normativo pronto a fine anno dovrebbe entrare a pieno regime nel 2014. Dunque, scrive Romano, i paesi dell'Unione Europea riuniti in un vertice a Bruxelles hanno confermato l'urgenza di terminare al più presto la procedura legislativa indispensabile per dare alla zona euro una vigilanza bancaria centralizzata in mano alla Banca Centrale Europea. Qual è però il conflitto? Il conflitto è appunto tra Merkel e Hollande. La Merkel con la Germania al seguito, come scrive Ivo Caizzi a pagina 2 del Corriere della Sera, ha voluto appoggiare la proposta del suo ministro delle finanze, Wolfgang Schäuble, di nominare un super ministro dell'Unione Europea per l'euro con potere di veto sui bilanci dei paesi con difficoltà finanziarie. E su questo potere di veto sui bilanci che si è consumato questo scontro soprattutto con Hollande, tanto che il presidente francese ha definito questo un discorso dal sapore elettoralistico. Tra un anno, meno di un anno, si vota in Germania e dunque questo agli elettori, secondo Hollande, sta guardando Angela Merkel. Su questo c'era ovviamente il confronto più forte. Anche il Manifesto a pagina 3 titola Merkel potere di veto, lo scontro Germania-Francia sulle priorità economiche della crisi, e Dino Peso è tra l'altro in un retroscena, non dietro le quinte di quello che è successo a Bruxelles, sottolinea ancora una volta come l'asse Roma-Parigi abbia sbloccato l'impasse. Sicuramente tra il premier Mario Monti, il governo italiano e Parigi c'è una maggiore unità di intenti rispetto al passato, e questo da un po' di tempo, per fare fronte comune contro le proposte di Angela Merkel. Anche per il Corriere della Sera è la sottile tela di Monti sulla vigilanza bancaria, scrive Marco Galluzzo a pagina 3. Nel corso dei 20 minuti di colloquio tra Monti e Hollande, scrive Galluzzo, poco dopo l'accusa del presidente francese alla Merkel di fare proposte elettoralistiche, si tocca l'argomento incriminato. E mentre Monti dice all'inquilino dell'Eliseo tutto quello che lui pensa dell'ultima posizione, in attesa di Berlino i due leader si trovano sostanzialmente d'accordo. Ecco dunque che nello staff del presidente del Consiglio Monti emerge questa frase: ci sembra che ci sia un'ossessione rigorista, peraltro a proposito di un argomento che non è mai stato discusso. Intanto, mentre i leader europei discutono ad Atene, c'è lo scontro sociale, lo scontro di piazza, lo scontro che ha portato un morto, un manifestante morto. È il secondo sciopero generale negli ultimi tempi, si possono vedere video che girano in rete, si possono vedere foto sui giornali che testimoniano questi scontri tra polizia e manifestanti. E d'altronde è una situazione in Grecia che rischia davvero di diventare molto molto difficile, perché le tensioni sociali sono molto molto alte. Tutto questo invece, se rientriamo nei nostri confini, si scontra con una politica italiana che è davvero litigiosa. Se uno guarda sia a destra che a sinistra, per motivi diversi, ma ci sono i partiti tradizionali che sono davvero a livelli di macerie, chi più chi meno, più forse il Popolo della Libertà, a meno a giudicare da Daniela Santanchè, che si è retta a rottamatrice del centrodestra di fatto, anzi viene definita dal Corriere della Sera azzeratrice, Santanchè azzeratrice. A pagina 12 il PDL protesta, va fermata. Cosa ha detto ieri Daniela Santanchè? Lo leggevamo sul Foglio. Bisogna che si dimettano tutti i vertici del partito. Tra l'altro Libero attacca con l'editoriale di Maurizio Belpietro, dice, sì, va bene, si dimettano tutti, ma si dimetta anche lei. Anche sul Sole 24 Ore Marzio Bartoloni racconta nella nota politica come Santanchè rottami e il PDL in rivolta. Berlusconi ha preso le distanze attraverso il suo portavoce Paolo Bonaiuti, perché in realtà lui è sempre silente. Ha preso le distanze da Daniela Santanchè, ma nel partito ovviamente restano dubbi sulla sua linea. A sinistra invece qual è la questione? La questione è, si può derubricare così, ormai è uno scontro tra Renzi e D'Alema più che tra Renzi e Bersani, perché D'Alema molto piccato dopo aver fatto una serie di interviste. Oggi Fabrizio Roncone va a intercettarlo in qualche modo a Montecitorio, cerca di capire anche gli umori di chi gli sta intorno, c'è l'onorevole Marina Sereni, trovate l'articolo di Fabrizio Roncone a pagina 17 del Corriere. Marina Sereni che dice, ma no, è molto sereno, mi ha parlato del suo vino in Umbria che produce. Io gli ho risposto che in Umbria grazie al cielo abbiamo leggi severe, perché gli vietano di produrre lo spumante rosato, e lui sulle leggi severe ha detto effettivamente così, mi ha fatto vedere due multe perché poverino andava a 55 km all'ora alle porte di un paesino e l'autovelox l'ha beccato. Quindi D'Alema, che pure c'ha da pagare due multe perché è andato a 55 all'ora, non come il presidente del consiglio della regione Lazio abruzzese che sfrecciava con l'auto blu sulla Cassino Roma. E un D'Alema avvicinato poi da Roncone e dice qualche parola, vede, io col mio gesto spero di aver dato un segnale, ci sono state tante chiacchiere inutili, e poi sottolinea questo, certo ha fatto bene il Corriere a pubblicare un colonnino ieri in cui si parla di quella società nata nelle isole Cayman. A cosa si riferisce? Si riferisce a un qualcosa che l'Unità oggi mette in prima pagina addirittura per attaccare Matteo Renzi. Matteo Renzi ha fatto un'operazione di fundraising, cioè di raccolta fondi, a Milano nei giorni scorsi, una cena in cui ha incontrato esponenti della finanza, del mondo dell'imprenditoria, delle professioni, ed ha affidato tutto a Davide Serra. E scriveva ieri il Corriere della Sera Davide Serra, che in passato ha fondato una società, le Cayman. Ecco allora che l'Unità prende spunto per attaccare. Le primarie in paradiso fiscale. Questo è il titolo di prima pagina. Renzi alla raccolta fondi del finanziere che ha la società alle isole Cayman. E a pagina 3 c'è l'articolo di Vladimiro Frulletti. In effetti la cena in piedi con relativo fundraising organizzata a Milano l'altra sera Matteo Renzi potrebbe creare più di un imbarazzo. È stata organizzata da Davide Serra, che con Renzi condivide un passato scout e che è colui che materialmente ha organizzato la cena alla Fondazione Metropolis con 150 persone per dare una mano a Matteo. E il motivo spiegato al Corriere della Sera appunto è che si faceva notare come la società di Serra sia controllata da una holding che è stata costituita nelle isole Cayman, un paradiso fiscale. Dunque questo è l'ultimo attacco. Segnaliamo anche sul Secolo XIX che Massimo D'Alema scrive Alessandro Di Matteo, nell'apice del suo sfogo ha detto così: ora me la pagheranno. Ecco, non si capisce bene a chi si riferisce, così un generico ora me la pagheranno, ma questa è la posizione di D'Alema, che raccontano sia il Fatto che Pubblico è pronto a fondare un nuovo partito. Dovesse vincere Renzi le primarie, scrive Antonello Caporale sul Fatto a pagina 4, anzi è convinto che alla fine Renzi vincerà le primarie, e quindi che cadrà il Partito Democratico, che ci sarà quello scontro che lui ha già profetizzato, e dunque c'è necessità, secondo il Fatto Quotidiano, di studiare un nuovo partito al quale D'Alema starebbe già pensando. Simpatico anche Fioroni, che alla proposta di rottamazione ha mandato un SMS a Renzi con su scritto: grazie per la stima, pensavo di non contare nulla. E questo nel centro-sinistra, invece, e nel centro-destra. Per quel che riguarda le regioni, abbiamo detto un po' di vicissitudine, la regione Lazio, beh certo, però quello che succede alla regione Piemonte è forse ancora più importante. L'articolo è a pagina 6 della Stampa: Piemonte, un buco da 900 milioni. L'assessore alla sanità Monferino, racconta nel suo articolo Alessandro Mondo, ha detto la regione Piemonte è tecnicamente fallita. E dobbiamo trarre le conseguenze del caso. Tecnicamente fallita, questi conti della regione. In realtà il governatore Cota della Lega annuncia: sappiamo cosa fare, dobbiamo fare un giro di riforme toste all'insegna del rigore, tutti sono informati. Però, insomma, che un assessore dica la regione è tecnicamente fallita, tutti devono capire questo e trarne le conseguenze, è un qualcosa che davvero colpisce negativamente. A proposito di regioni, ieri ha fatto scalpore una notizia, una vecchia intervista che è stata rispolverata, risale al 1997, che è stata messa in rete, rilanciata anche da Enrico Mentana, e nella quale l'attuale governatore della Lombardia Roberto Formigoni diceva così: qual è il suo sogno da piccolo? Qual era il suo sogno da piccolo? E sapete cosa ha risposto Roberto Formigoni? Da piccolo sognavo di fare il collaudatore di vacanze pagato. Non aggiungo altro. Sognavo di fare il collaudatore di vacanze pagato. Roberto Formigoni. Un altro politico molto sulla graticola è Gianfranco Fini. Sono rispuntate carte sull'Espresso, ieri sul Fatto Quotidiano, riguardante la famosa vicenda della casa a Monte Carlo. Nuove carte sulla casa, Fini non lascia, così a pagina 19 del Secolo, sì, ne azzeccassi una, a pagina 19 del Sole 24 Ore, ecco così. Nuove carte sulla casa, Fini non lascia. Non ho mai mentito, per questo continuerò a testa alta. C'è un racconto anche molto, molto dettagliato di Claudio Gatti dei rapporti tra Fini, gli uomini di Fini, il latitante Corallo, l'ex presidente della Banca Popolare di Milano Massimo Ponzellini, Giancarlo Tugliani, vale a dire il cognato di Fini, e il suo factotum James Wolfenzau. Insomma, tra politica, affari e videopoker. In realtà non lascio, non mollo, però Fini ha fatto anche una dichiarazione nella quale per la prima volta prende le distanze dalla sua famiglia in qualche modo, perché nell'ambito della mia vita privata, c'è scritto nella nota, quanto scritto dall'Espresso suscita in me profonda amarezza per comportamenti che non condivido, ma questo è un aspetto tutto e solo personale. Non ho mai mentito, nascosto qualcosa agli italiani, per questo continuerò il mio impegno politico a testa alta. Ecco, è quella presa di distanza, tanto che Francesco Bei nel suo retroscena, pagina 13 di Repubblica, racconta di una giornata nera di Gianfranco a cui viene attribuito questo virgolettato dalla famiglia: non me l'aspettavo. Saranno gli elettori a giudicarmi, come sempre, la posizione di Fini, che però viene definito come uno che non ha dormito tutta notte, passata a discutere con la moglie su quell'ennesima carta taciuta, una lunghissima giornata a consultarsi coi suoi, nessun passo indietro, per carità, dimettersi, mai, la norma in politica è che le dimissioni non si danno mai quando a chiederle sono gli avversari. Ma certo, quella nota in cui si riferisce all'ambito della vita privata che suscita in me profonda amarezza fa capire che c'è una sorta di presa di distanza personale dai comportamenti dei suoi familiari. Tanto che viene messa da Francesco Bei questa dichiarazione dell'onorevole Menia, che uscendo da Montecitorio con una faccia da funerale alza le spalle e sospira: Gianfranco è amareggiato e incazzato, ma ha due figlie con lei. Che deve fare? Il Fatto Quotidiano invece con Alessandro Ferrucci racconta a pagina 6 il tentativo di una intervista un po' surreale con Elisabetta Tugliani, la moglie di Fini. Pronto Tugliani, un'intervista che va avanti con un tira e molla, una richiesta di intervista per mesi. Prima vuol fare l'intervista solo via mail, che Il Fatto dice no, ma via mail gli argomenti. Poi vuol parlare solo della sua collezione presentata a Pitti Bambino, a Pitti Bimbo. Alla fine si accordano Il Fatto Quotidiano per un'intervista con Elisabetta Tugliani, ma solo via mail. Mandano le domande, quelle del Fatto Quotidiano, all'ennesima sollecitazione arriva via SMS la risposta, che è questa: ho ritenuto e ritengo le domande così come formulatemi del tutto offensive, non credo ci sia altro da aggiungere, cordiali saluti. Insomma, non rifiuta l'intervista. D'altronde una situazione davvero difficile, anche appunto a livello familiare. Il Corriere della Sera intervista invece Amedeo La Boccetta, parlamentare che fa un'intervista un po' correndo anche a prendere un treno per Napoli. Le ultime domande, scrive Fabrizio Caccia, riusciamo a porgliele via SMS. Le domande, insomma: se nell'ufficio di Corallo c'erano i fax dei passaporti di Elisabetta e Giancarlo Tugliani inviati a James Wolfenzau, vuol dire che Corallo e Fini, oppure che Corallo e Tugliani si conoscevano? Ma perché non gira queste sue cortesi domandine al presidente della Camera? Dice La Boccetta. Ma allora, scusi, potrebbe essere Francesco Proietti, deputato finiano, altro amico stretto di Corallo, a fare da tramite coi Tugliani? Vedo che non riesce a parlare con Fini, risponde La Boccetta. Insista, vedrà che ci riuscirà. Insomma, un muro, non parla. Accusato tra l'altro La Boccetta di avere, ricordate quello che quando i finanzieri andarono a fare una perquisizione a casa dei Corallo, arrivò in tutta fretta a dire: questo c'è un computer, questo computer è mio, e se lo portò via nel pieno della perquisizione, dicendo: sono prerogative parlamentari, questo computer è mio. Poi l'ha dato ai finanzieri, ma i finanzieri hanno accertato che sono stati cancellati molti file, e La Boccetta dice: sì, è vero, ho cancellato per esempio l'elenco dei 24.000 nomi degli iscritti al PDL di Napoli. E perché mai? Perché non volevo che finissero alla procura di Milano. Questo Amedeo La Boccetta. Qua ormai siamo in chiusura, devo chiudere con al solito schettino, e mi spiace, ma ogni giorno c'è un'udienza del processo e ogni giorno sembra che voglia alzare i toni. Libero, pagina 18, schettino: ho fatto meglio di Dio. Questo è il titolo. Quale volontà di Dio? Altro che provvidenza, ho fatto tutto io. Ha accolto anche una giornalista della Vita in Diretta, arrivata in albergo per fargli un'intervista, così: buongiorno, vuole il baciamano o l'inchino? Questo è il comandante Schettino, eh? E racconta invece il Quotidiano Nazionale che... sì, gli ha detto così: baciamano, inchino, sa, lei è proprio simpaticissima, io a casa guardo sempre La Vita in Diretta, a Meta di Sorrento, sa, c'era chi mi offre 500 euro per farmi una foto insieme, 500 euro per una foto, è il listino, prezzo di listino per la foto con il comandante Schettino.